Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è del 1994 ed è Il Re Leone, considerato il 32esimo classico Disney. La storia è ambientata nel regno della savana ed è molto influenzata dalla tragedia di Shakespeare, L'Amleto, e inoltre anche da delle storie della Bibbia, come per esempio quella di Mosè. Il film ha come protagonisti, ovviamente, gli animali della savana, ed inizia con la celebrazione del figlio appena nato del re leone Mufasa, e il figlio verrà chiamato Simba. Da subito Simba è considerato rivale del fratello minore di Mufasa, ovvero il perfido Scar. Il film continua con Simba che cresce, ed è un piccolo leoncino. Però Scar decide di attuare un piano per liberarsi del nipote e del padre, ovvero di suo fratello. Infatti durante il film convince il nipote a disubbidire il padre, ad andare in posti che sono lontani dalle terre governate dal padre, tant'è che un giorno lo convince ad entrare in una gola dove in realtà dovrebbero passare una mandria di gnu. Mufasa va a salvare il figlio, però Scar lo uccide, cioè lo butta di sotto dal burrone. Simba non vede l'accaduto e quindi è convinto di essere stato lui ad uccidere il padre, proprio per la sua sventatezza. Scar quindi lo convince, sempre nel suo piano, di fuggire via, perché se tutti avessero scoperto quello che era successo, ovviamente lo avrebbero odiato. Quindi Simba fugge e scappa molto lontano dalla savana e dal deserto, arriva verso la giungla. Lì fa un incontro con un facocero ed un suricato che sono Pumba e Timon, che lo aiutano, lo accudiscono e gli insegnano il famoso motto della Hakuna Matata, ovvero senza pensieri, no? In questo modo Simba cresce e diventa un leone più adulto. Però proprio al picco, diciamo, della sua età adulta fa un incontro inaspettato, ovvero ritrova la sua vecchia amica d'infanzia Nala, anche lei una leonessa, che gli chiede di ritornare nel suo regno e di riprendere il trono che a lui gli spetta di diritto. Quindi Simba si ritrova un po' combattuto perché non voleva tornare in quel passato che lo ha ferito. Di conseguenza cerca conforto in un'altra figura, ovvero quella del babbuino sciamano Rafiki, che gli mostrerà lo spirito del padre, che gli dirà di cercare ciò che lui è veramente, quindi il suo spirito guida, in un certo senso, e la sua famiglia. Simba quindi nel finale torna nelle sue terre della savana per affrontare lo zio, che confessa, diciamo, i suoi crimini e alla fine viene ucciso. Simba quindi diventa il re trionfante delle terre della savana e il ciclo della vita continua, ed è fondamentalmente quello su cui è basato tutto il film. Il Re Leone fu il primo classico Disney a basarsi su una storia originale e quindi non ripresa da nessun altro libro. Infatti gli sceneggiatori per realizzarla hanno redatto varie volte la sceneggiatura, i dialoghi e quindi l'animazione e la realizzazione si è prolungata per molto tempo. Inoltre all'interno degli studios ci sono stati alcuni screzi fra gli animatori perché non volevano partecipare a questo progetto. Infatti in concomitanza c'era anche Pocahontas, che tutti erano convinti che potesse avere molto più successo del Re Leone e quindi tutti gli animatori preferivano lavorare per Pocahontas. Perciò, dopo tutti questi screzi e tra l'altro anche un'accusa di plagio, perché il film è molto somigliante a un anime giapponese degli anni 60 che si chiama Kimba il leone bianco, che è della Texuka Productions, ma il film comunque avrà un grandissimo successo, sarà forse uno dei film con maggiore incasso economico, farà quasi $1 miliardo in tutta la sua produzione, tutta la sua distribuzione. Quindi fondamentalmente è stato un grande successo per la Disney, anche dopo tutte queste accuse, dopo tutte queste difficoltà che ha riscontrato, oltre anche alle accuse di messaggi subliminali e cose simili. Inoltre ha ricevuto anche tanti premi per la colonna sonora. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animale.